per me. Se il tuo obiettivo è di colpirmi, stai pur sicura che il cuore tu l'hai centrato già. Però se io fossi in te, dubiterei di un tipo come me, perché suona ogni cosa che muovi del tuo fragile corpo, le mie dita sul basso accarezzano te, ma i tuoi modi sensuali mi incattiviscono un po', mi dicono che non sarai sempre così. Oh,